Muchas gracias a usted por llegar aquí hoy. Yo soy muy honrada que están tanta gente esta mañana. Vado a hablar en italiano, va a ser traducido, pero quiero hacer mis saludos en español, el poco español que tengo. Muchas gracias también a Margara Milán, a Lucía Linsalada, que han organizado este encuentro, y también al Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM. Sí, te debe de llegar. Sí, sí. Lo que trataré de hacer hoy en esta presentación es contar, antes que nada, cómo nació este libro, en qué contexto político, cultural, empecé a hacer esta investigación. Esto porque Caliban y la bruja es un libro histórico, una historia de dos o tres siglos, desde el 15 al 18, siglos que fueron más importantes per la transizione para la transición del mundo feudal al mundo capitalista. Però è soprattutto un libro politico. È un libro che vuole avere come suo risultato un cambiamento anche nella pratica politica. E infatti questo libro è nato dai dibattiti, è proprio una conseguenza dei dibattiti che si sono dati dentro al movimento femminista degli anni 70. Soprattutto nella prima fase, una fase che per me senz'altro, e non solamente per me, ha rappresentato il momento più radicale di questo movimento. E uno dei grossi dibattiti che ha caratterizzato il femminismo negli anni 70, io credo a livello internazionale, è stato il dibattito sopra la questione del lavoro domestico, del lavoro di riproduzione, perché tutte noi sentivamo in maniera magari differente, ma sentivamo che molti dei problemi sociali che le donne hanno incontrato nella società capitalistica e soprattutto il fatto che le donne nel capitalismo, nella società moderna, hanno meno potere, potere sociale degli uomini. Sentivamo che tutto questo era in un qualche modo collegato a una certa divisione del lavoro che ha voluto le donne come principalmente destinate al lavoro di riproduzione, no? Quindi c'era un dibattito molto vivo dentro il movimento femminista su questo lavoro, no? Perché il lavoro di riproduzione in qualche modo ha così pesantemente condizionato la vita delle donne. E molte teorie, particolarmente teorie che provenivano dal marxismo, dal socialismo, insistevano che le donne erano disvantaggiate dentro la società capitalistica rispetto agli uomini, perché le donne sono state impegnate in un terreno, in un tipo di attività che a differenza dell'attività del lavoro degli uomini non era produttiva. In altre parole, c'è un'analisi del lavoro domestico, del lavoro di riproduzione, che lo vedeva come un lavoro di tipo precapitalistico. E appunto si diceva che le donne hanno meno potere sociale degli uomini perché non sono produttrici di capitale, perché il loro lavoro non è un lavoro considerato dalla classe politica e dalla classe economica come lavoro socialmente necessario. Io ero parte di un'organizzazione femminista che si opponeva molto decisamente a questo tipo di interpretazione, È un'organizzazione che ha preso il nome di campagna internazionale per il salario lavoro domestico. E la nostra tesi era esattamente il contrario. No, molte di noi venivano da terreni di lotta che si rapportavano al marxismo, ma in modo molto molto critico. E la nostra posizione era che in effetti il lavoro riproduttivo, il lavoro a cui le donne sono state destinate dentro la società capitalista, non solo non è lavoro marginale, ma in realtà ha costituito il lavoro più importante dentro l'organizzazione capitalistica del lavoro. Perché è più importante? Perché è più fondamentale? Perché la nostra analisi del lavoro domestico, del lavoro di produzione, ha concluso che questo lavoro è lavoro che produce non solamente piatti puliti, abiti puliti, pasti, nutrienti, eccetera, ma è lavoro che produce nella sua totalità, è un lavoro che produce la forza lavoro, che produce praticamente la capacità della gente di lavorare. So, la nostra tesi era esattamente il contrario di quella che dominava nell'ambito del femminismo liberale o del femminismo socialista e marxista. La nostra posizione era che il lavoro di riproduzione è stato e continua a essere un lavoro centrale dentro l'organizzazione capitalistica del lavoro, quindi uno dei fondamenti, dei pilastri dell'accumulazione capitalistica, e che la ragione per cui questo lavoro è sempre stato ignorato, invisibilizzato, no? Reso invisibile, è perché il capitalismo ha creato una società in cui lavoro è diventato sinonimo con salario. Dove non esiste il salario, non esiste il lavoro, sembra non esistere il lavoro. Ed è proprio questo che noi abbiamo questionato, che abbiamo respinto. E a partire da questa posizione, a partire da questa tesi, abbiamo cominciato a fare tutta un'analisi molto importante a mio avviso, un'analisi che a mio avviso ha trasformato molte cose, ha trasformato la concezione di che cos'è il lavoro, ha trasformato la concezione di cos'è la politica e soprattutto ha trasformato e criticato tutta una storia di teoria marxista che ha completamente ignorato questo aspetto della società capitalistica. E quindi un'analisi, abbiamo cominciato un'analisi del salario, vedere che cos'è il salario, come funziona il salario nella società capitalistica, come forma di organizzazione della società, non in quanto denaro in sé, ma come forma di organizzazione, soprattutto come forma di creazione di gerarchie, no? Gerarchia di lavoro, come mezzo strumento per creare divisioni dentro il proletariato. E abbiamo anche fatto un'analisi del capitalismo, secondo me molto importante, che ha definito il capitalismo come un sistema che non solo è riuscito storicamente appropriarsi di una quantità di lavoro non pagata immensa, una quantità di lavoro non pagata molto più grande di quella che i fondatori del socialismo ci hanno detto, ma è stato costruito strutturalmente sopra svalorizzazione, sopra la degradazione del lavoro di riproduzione. In altre parole, già a partire dalla nostra attività femminista, avevamo concluso che c'era un rapporto molto grosso tra la svalorizzazione delle donne, del lavoro femminile, a livello di massa, e la svalorizzazione del lavoro riproduttivo dentro la società capitalista. Cioè il capitale, avevamo concluso, deve svalorizzare il lavoro di riproduzione che poi è la nostra vita, perché svalorizzare la riproduzione è svalorizzare la vita della gente e svalorizzarlo in modo da tenere basso il costo del lavoro, in modo da tenere basso il costo del lavoro. Quindi praticamente una situazione analoga, no, nel caso delle donne, alla situazione che si è data, per esempio, con la creazione delle piantagioni, dello schiavismo, no? Infatti, a partire da un'analisi della situazione delle donne, abbiamo visto che esisteva un rapporto molto stretto tra il sessismo e il razzismo, tutti e due come aspetti essenziali, strutturali, necessari della produzione capitalistica, e tutti e due finalizzati a tenere basso il costo del lavoro, no? Allora è con questo schema che io ho cominciato la ricerca che poi ha portato al Caliban e la Bruja, e ho cominciato questa ricerca perché avevo già delle sicurezze teoriche, avevo già delle tesi precise, però volevo assicurarmi, volevo procurarmi anche una documentazione storica. Cioè ero in partenza sicura che il capitalismo aveva creato un certo tipo di lavoro riproduttivo, che il lavoro domestico riproduttivo, come si dà, come si è dato nella società capitalista, non era, non rappresentava un lascito di società anteriore, no? Ma che il capitalismo si è appropriato, no? Si è appropriato di certe forme sociali e poi le ha ristrutturate. E per cercare, no, una corroborazione storica, delle prove storiche, che io ho cominciato questo lavoro. Volevo vedere, bene, se il capitalismo ha costruito questo lavoro, se ha in effetti cambiato la condizione delle donne, quando è successo, come è successo. E quindi ho cominciato un viaggio, prima ho cominciato con l'Ottocento, poi ho capito, no, non riesco a capire ancora, sono tornato a Settecento. Infine questo viaggio mi ha portato al Medioevo. Ho realizzato a un certo momento che era necessario per me capire soprattutto come era cominciato il capitalismo, perché il capitalismo, da dove veniva, perché capire da dove veniva la genesi del capitalismo rappresentava, significava anche capire che cos'è il capitalismo, che cosa ha rappresentato nella storia dell'umanità, nella storia dei sistemi di sfruttamento, che cosa questo sistema ha rappresentato, come ha cambiato la vita della gente. E ovviamente il mio interesse era soprattutto capire come aveva cambiato il processo di riproduzione, una cosa che non potevo apprendere leggendo Marx, perché su tre volumi del Capitale la questione della riproduzione della forza lavoro ha uno spazio molto limitato, e il modo in cui Marx tratta la riproduzione della forza lavoro nel capitalismo è estremamente problematico, no? Marx ha uno schema, no? Lui parla della riproduzione della forza lavoro, ma ne parla in una maniera che è inaccettabile. Praticamente Marx ci racconta che l'operaio salariato, sempre l'operaio della fabbrica, salariato, con il salario compra dei mezzi di riproduzione, usa questi mezzi, li consuma, e in questo modo si riproduce. No? Non interviene niente tra l'operaio salariato, il salario e il consumo, non c'è nessun altro lavoro che interviene. non esiste un lavoro domestico, un lavoro. C'è qualche accenno alla procreazione, no? Cioè Marx qua e là ci dice che il salario maschile deve essere abbastanza grande per poter permettere la procreazione. Ma tutto qua, no? Quindi a nostro avviso e a mio avviso è una posizione insostenibile, no? Insostenibile, inaccettabile. È per questo che ho cominciato questo lungo viaggio, no? E questo viaggio è stato un viaggio di grande scoperta, anche se io sono convinta che c'è ancora molto, molto, molto da scoprire. E una delle ragioni per cui faccio molte presentazioni è perché spero di ispirare, no? Le nuove generazioni a continuare questo lavoro, perché io sono convinta di aver appena scrostato la superficie. E quindi spero tanto che continuerete questo lavoro, non solo in relazione, per esempio, all'Europa, ma in relazione proprio a cominciare dall'America Latina, no? Che è anche un tema del mio libro. Allora, come dicevo, ho cominciato cercando la storia del capitalismo, la genesi del capitalismo. E la prima scoperta che ho fatto è stato che il capitalismo, quello che chiamiamo sistema capitalistico, non è stato una specie di... non si è determinato come conseguenza di un processo evolutivo, no? Noi abbiamo, ci hanno insegnato, almeno a me hanno insegnato, questa idea che i sistemi sociali cambiano, si evolvono, no? Un po' come gli alberi, l'albero cresce, mette nuove foglie, e così i sistemi sociali crescono e si passa da forme meno sviluppate a forme più avanzate. Questa era la teoria che mi hanno insegnato a scuola, ma in realtà ho scoperto che la nascita del capitalismo è stata ben diversa, che il capitalismo è nato come risposta, come reazione, come controrivoluzione, per distruggere, sconfiggere, no? Tutta una serie di lotte sociali che si erano date nel periodo feudale, lotte di contadini, artigiani, uomini e donne contro il potere feudale, e che queste lotte, a partire da un certo punto, hanno messo in crisi il sistema feudale, hanno impedito quella che era la produzione della ricchezza della classe feudale. E in un certo senso il capitalismo è stato la risposta a questa crisi del comando sopra il lavoro da parte di una classe feudale che a partire dal XV secolo in Europa ha compreso che non poteva riprodursi, che non poteva mantenere il suo potere. Quindi il capitalismo, cominciando questo tipo di analisi, a mio avviso si è costruito come tutto a partire da una serie di strategie, diverse strategie che la classe dominante, no? I proprietari terrieri, i feudali, i mercanti hanno adottato per recuperare il loro potere. E tutte queste strategie, dentro nel corso di un secolo, hanno formato un sistema diverso, hanno creato un sistema diverso. Allora, quali sono queste strategie? Innanzitutto la conquista, espansione coloniale, la conquista, la colonizzazione, fondamentale, chiaro, la conquista delle zone americane, quelle che si chiamano americane, no? tutto l'argento che è venuto dal Messico, dal Perù, no? Ha attivato il mercato, ha attivato un'economia di mercato, ha creato un'economia di mercato, no? Un'altra cosa molto importante è stata la tratta degli schiavi, no? Questa accumulazione, questa grande manovra che è stata la costruzione delle piantagioni schiavistiche nei Caraibi. Ancora un'altra strategia, l'espulsione dei contadini, no, in Europa dalle terre che avevano in comune e che usavano per il loro sostentamento e che coltivavano in modo comunitario, no? Allora, tutte queste strategie ci sono abbastanza note, cioè mi erano abbastanza note, perché già in Marx e in molti altri storici, no, si trovano riferimenti. No, infatti Marx parla di queste strategie come momenti fondamentali dell'accumulazione originaria, no? Accumulazione originaria che è il processo che crea le condizioni per lo sviluppo capitalistico, no? Però ovviamente io mi domandavo, ma dove sono le donne? Dov'è la riproduzione? No? Anche dentro la tratta di schiavi, ma la situazione delle donne era la stessa di quella degli uomini? Nella colonizzazione era lo stesso? No? Nell'espulsione dei contadini, no? Si possono vedere delle differenze tra quello che è successo agli uomini e quello che è successo alle donne. In conclusione, a partire da questa analisi, sono arrivata a una serie di tesi, sono arrivata a una serie di concetti che a mio avviso sono stati molto importanti, no? Per creare un'altra interpretazione, un'altra visione di cos'è stato lo sviluppo capitalistico, di che cosa ha necessitato lo sviluppo capitalistico. Prima di tutto, mi è stato molto chiaro, e questa è una delle tesi del libro, che la separazione dai contadini, dei contadini dalla terra, no? Proprio quello che Marx vede come l'atto fondamentale nella nascita del capitalismo, no? È stata solo un aspetto, è stata solo un aspetto dell'accumulazione originaria, perché c'è stata un'altra separazione, che con l'avvento dei rapporti capitalistici si è dato un altro tipo di separazione, la separazione tra produzione per il mercato, produzione di merci, di cose da vendere per il mercato, e riproduzione. No? Questo è molto importante, perché se noi pensiamo a un'economia di sussistenza, no? Cioè a un tipo di economia dove la gente produce per la loro sussistenza, vediamo subito che non c'è nessuna separazione nella sussistenza tra produzione e riproduzione. No? Se io coltivo un campo e produco delle patate, mi riproduco. No? Non esiste una separazione. La separazione esiste solamente quando le patate le produco per venderle. E incomincia col capitalismo un tipo di separazione tra produzione e riproduzione che è molto decisivo, perché ci scopriamo che il lavoro di riproduzione incomincia a sparire, che il modo in cui il capitalismo definisce cos'è l'economia, cos'è la produzione di ricchezza, cos'è la produzione per la società, non include il lavoro riproduttivo. E scopriamo anche che sempre di più questo lavoro è fatto dalle donne, no? E quindi una delle prime conclusioni a cui sono arrivata è che sì, si può verificare storicamente è verificabile che con l'avvento del capitalismo, no? C'è stata, si è verificata una biforcazione che ha separato produzione e produzione e sempre più salario e non salario, perché la riproduzione diventa non salariata, e uomini e donne, cioè si crea la classica divisione sessuale del lavoro che continua fino ai nostri giorni in molti modi, o continua anche ai nostri giorni, no? E ho trovato molta documentazione storica, adesso forse non c'è tempo di scendere nei dettagli, però per esempio a partire dal secolo XVI, no? Le donne in Europa sono state espulse da molti lavori di produzione che facevano nel Medioevo, sempre più nel XVI, XVII secolo. Le donne non riuscivano a trovare impiego, no? Nelle nuove forme di lavoro salariato, no? Gli unici lavori che le donne riuscivano a trovare erano lavori come baglia, wet nurse, no? Come cameriera, come donna che fa le pulizie, come donna che lava i panni. No? Quindi tutti i lavori legati alla riproduzione. E infatti si nota in questo periodo, si nota un grande impoverimento delle donne. Con l'avvento del capitalismo c'è un grande impoverimento in Europa, no? Un grande impoverimento. L'Europa subisce un crollo rispetto al Medioevo. Perché? Perché sempre più la gente perde la terra, no? La gente perde la terra, il lavoro salariato è bassissimo, è quasi un lavoro da schiavi. Poi mentre arriva l'argento dall'America, i prezzi, no? La nuova economia del mercato, nella nuova economia del mercato ci sono questi prezzi che salgono, i prezzi delle cose più fondamentali, del grano per esempio, quindi c'è un impoverimento immenso, no? Vagabondi dappertutto, a gente che chiede la carità, però questa situazione ha colpito soprattutto le donne, che è soprattutto le donne anziane, che in aggiunta all'impoverimento generale, no? Sempre più avevano difficoltà a trovare impiego nei posti di lavoro salariato che si andavano creando, no? Sempre più hanno. E per questo, per esempio, che con l'inizio del capitalismo in moltissime città europee esplode la prostituzione, diventa un fenomeno di massa. È una situazione molto interessante, perché io ho fatto questo lavoro negli anni 80-90, in cui il confronto con quello che stava succedendo, no? Con il processo di globalizzazione era continuo, no? Perché continuamente vedevo, è quello che sta succedendo oggi, no? È quello che sta succedendo oggi con l'espropriazione delle terre, l'aumento dei prezzi, eccetera, eccetera. Ma allora mi è venuto il risultato molto chiaro, è cominciato da questo punto, no? A vedere questo aspetto della ridefinizione dell'economia capitalistica, no? Ha cominciato a capire che effettivamente esistono basi storiche, no? Per affermare che il capitalismo nel suo sviluppo ha svalorizzato il processo di riproduzione. Però questo è stato solo l'inizio. Perché studiando il XVI e XVII secolo ho anche incontrato questo grande, grande episodio che non ha precedenti nella storia, che è la caccia alle streghe. No? E la caccia alle streghe è diventato sempre di più il punto centrale, no? Del mio libro. Il punto centrale del libro. Anche se una parte molto importante, io credo, del libro stesso tratta di come nella transizione al capitalismo si trasforma non solo la posizione delle donne, no? Ma si trasforma anche il rapporto che tutto il proletariato incomincia ad avere con il proprio corpo, no? Perché? Perché proprio perché il capitalismo, si propone di tenere basso il costo del lavoro. E poi perché il sistema capitalistico è senz'altro il primo sistema nella storia dell'umanità, nella storia dello sfruttamento, no? Che vede il lavoro, come il centro, la fonte, la sorgente proprio della ricchezza sociale, no? Quindi il capitalismo più di ogni altro sistema si è preoccupato di regimentare, no? La forza lavoro, di disciplinare la classe lavoratrice, no? E ha cominciato a disciplinarla istituendo una grossa riforma sociale, no? Di cui la caccia alle streghe è veramente al centro. Ma una riforma sociale che è anche più larga della caccia alle streghe, e che aveva come scopo veramente di creare un nuovo tipo di lavoratore, un nuovo tipo di lavoro, un nuovo tipo di disciplina, no? E quindi c'è un capitolo nel libro, c'è un terzo capitolo che io credo sia importante, in cui analizzo qual è stato il processo di disciplinamento del corpo proletario, no? E da lì ho preso anche il titolo del libro, no? Caliban e la Bruja. Caliban, chi è Caliban? No? Caliban è il nome di un personaggio di una commedia, di un'opera di Shakespeare, La Tempesta. È in effetti l'ultima opera che Shakespeare ha scritto, no? Bene, la storia saprete già, comunque la racconto brevemente. La storia della tempesta è questo principe italiano che con sua figlia fa un naufragio in un'isola dei Caraibi, si pensa dei Caraibi, e lì non ha niente, però incontra un nativo, Caliban. Lo colonizza, no? Lo schiavizza e gli fa fare tutti i lavori. E Caliban è presentato come un essere mostruoso, mezzo umano, mezzo uomo, mezzo animale. E questa è la visione che gli europei avevano, no? Delle persone che colonizzavano, no? E poi Caliban è sempre in rivolta, è sempre pronto a rivoltarsi, no? E quindi è questo essere brutto. E la parola Caliban, dicono che Shakespeare ha usato Caliban per dire cannibale, perché i racconti che i missionari, i colonizzatori portavano, no, dal nuovo mondo, diceva che era un mondo di cannibali. Allora io ho preso Caliban sia come simbolo, no, di questo processo di colonizzazione che è stato fondamentale per lo sviluppo capitalista, no? E anche perché ho usato Caliban come simbolo del corpo, simbolo del corpo proletario che doveva essere dominato, doveva essere controllato, disciplinato, e doveva essere privato di tutta la sua autonomia, della sua creatività, no? E in questo capitolo, no, dove parlo del corpo ribelle, descrivo come effettivamente nei secoli XVI, XVII, il capitalismo in Francia, in Inghilterra, in Germania, incomincia a introdurre una politica sociale, no, che si muove in questa direzione e che cambia, il rapporto che il proletariato, il nuovo proletariato aveva col suo corpo, con il tempo, con la naturalezza, con la natura, no? Con gli altri, nel modo di vestire. Per esempio, c'è un grosso attacco contro le feste e contro tutti i momenti di socialità collettiva, no? C'è un tentativo di isolare, di individualizzare, atomizzare, no? Ovviamente per sconfiggere le possibilità di rivolta, no? E in questo capitolo io guardo anche alla filosofia del tempo e cerco di dimostrare che se guardiamo ai grandi filosofi del tempo, no? Al grande Descartes, Hobbes, no? Vediamo che c'è un rapporto tra questo processo di riforma sociale, questa grande opera di disciplinamento, e le nuove teorie, dei grandi filosofi, che sono i primi grandi filosofi borghesi, i primi grandi filosofi del capitalismo, che con le loro teorie cercano di creare un sistema intellettuale adeguato alle nuove necessità della nuova classe capitalistica. Bene, comunque, senz'altro, la caccia alle streghe occupa nel libro uno spazio veramente importante. È proprio il processo attorno a cui ruotano molte cose, no? E subito, quando ho incontrato questo fenomeno, no? Io non so adesso nelle scuole qui in Messico se si insegna la caccia alle streghe, ma io posso dire che quando sono andata a scuola in Italia, io ho avuto fatto tanti esami di storia e mai la caccia alle streghe mi è stata insegnata, mai, no? Molto interessante. E non solo, ma come voi sapete, la caccia alle streghe è diventata quasi un gioco per bambini, no? Perché a Halloween, tutti gli anni negli Stati Uniti, il giorno di Halloween, alle bambine si mettono il cappello e fanno la strega e dicono trick or treat, eccetera, no? E immaginatevi, no? Tutte noi, le ragazze, le donne della mia generazione, sapevano che c'erano state queste streghe, ma pensavamo che fosse una storia un po' leggendaria. Io non sapevo, solo col femminismo, no? Il femminismo ha cominciato a studiare la storia delle donne, no? Tante femministe come me sono tornati a studiare la storia, e studiando questa storia abbiamo incontrato questo grande sterminio. Centinaia di migliaia di donne nello spazio di 2 secoli e mezzo sono state arrestate, torturate, uccise in modo barbaro, bruciate vive sulla piazza del villaggio, no? Con l'obbligo di tutta la popolazione, a cominciare dalle loro figlie, se avevano figlie, di assistere alla loro esecuzione. Una cosa che non ha precedenti nella storia. no? Con accuse fantastiche, orrende, le accuse peggiori a cui un essere umano può essere esposto, di essere disumane, di essere serve del demonio, di essere nemiche dell'umanità, di essere nemiche. Credo che sia importante riflettere su questo fatto, che l'inizio della società moderna, l'inizio della società capitalistica comincia con uno sterminio di donne e con l'accusa di massa alle donne di essere le donne che poi delle classi povere, inferiori tra virgolette, di essere nemiche dell'umanità. È veramente una cosa su cui allora ho detto tante volte che quando si cominciano a leggere i documenti relativi alla caccia alle streghe, no? Ci si impaurisce, come storico, se una persona vuole essere uno storico, subito ti scoraggi, perché le accuse sono talmente fantastiche che dici non sai come confrontarti, come spiegarle. Pensi di essere di fronte a una popolazione di magistrati, politici, folli, no? Però mi ha aiutato molto, no? Crearmi una metodologia. Ho cominciato a guardare la cronologia, no? Cioè il periodo in cui si dà la caccia alle streghe è il periodo della colonizzazione dell'America, l'inizio dell'economia di mercato, l'espulsione dei contadini, l'inizio della caccia alle streghe. Allora non possiamo più parlare di feudalismo. Siamo in pieno sviluppo capitalistico. Siamo in pieno processo di sviluppo capitalistico. Quindi è stato molto chiaro fin dall'inizio che ovviamente esisteva un rapporto molto determinante, molto stretto e determinante, tra lo sviluppo capitalistico e la caccia alle streghe. In secondo luogo, ho cominciato a analizzare che cosa stava succedendo nel resto della società rispetto alle leggi, ai cambiamenti economici, ai cambiamenti nell'organizzazione della vita quotidiana. Cosa stava succedendo che potesse permettermi di capire perché questo tipo di accuse, no? E ovviamente ho visto il grande impoverimento, la perdita delle terre che affettava, che impattava soprattutto le donne anziane, no? Che erano quelle più facilmente accusate di essere streghe, no? La massificazione della prostituzione, no? E questa opera di disciplinamento continua, di tentativo di disciplinare, no? Il nuovo proletariato. E a partire da qui che ho cominciato a fare una serie di ipotesi. E a mio avviso queste ipotesi, con la ricerca che ho fatto, sono state verificate. E cioè che la caccia alle streghe, prima di tutto, è stato un momento definitivo nella formazione del proletariato moderno, un momento definitivo dello sviluppo capitalistico e della formazione della società moderna, e che ha avuto molte, molte funzioni, non una funzione sola, però la funzione principale è stata quella di estirpare, distruggere tutta una serie di pratiche sociali, forme di vita, credenze, soggetti, no? Soggetti sociali, la cui esistenza era incompatibile, era un ostacolo allo sviluppo capitalistico. Cioè la caccia alle streghe ha significato distruggere tutto un mondo di concezioni, di rapporti, di pratiche, che il capitalismo, con cui il capitalismo non poteva conciliarsi. Più specificamente, la caccia alle streghe ha avuto obiettivi molto specifici nei confronti delle donne. Prima di tutto ha servito a stabilire il controllo dello Stato sopra il corpo delle donne e soprattutto a cominciare dalla procreazione, no? È molto interessante vedere che una delle accuse più comuni che si faceva alle cosiddette streghe, alle donne che venivano arrestate, era quella di ammazzare i bambini, a rendere gli uomini impotenti, impedire la concezione tra le donne, impedire, ostacolare tutto il processo della procreazione, no? E infatti la strega è spesso presentata come una cannibale, è una calibana anche lei, è una calibana perché mangia i bambini oppure li cuoce per fare dei filtri, no? Bene, allora io ho interpretato, e spero che la mia interpretazione sia giusta, ho interpretato questa accusa che praticamente condanna con la pena di morte, con l'esclusione sociale, no? Il controllo che le donne avevano sopra il proprio corpo, sopra la procreazione. Io ho associato questa accusa al fatto che con l'inizio del capitalismo, il capitalismo al suo inizio incomincia a vedere la procreazione come un fattore economico, no? Vede la procreazione legata al mercato del lavoro, in questa ottica dove il lavoro è la fonte principale della ricchezza e quindi più lavoratori ci sono, più ricchezza, no? Non a caso, la prima teoria economica del capitalismo, che sono le teorie mercantilistiche, quelli di voi qui che studiano economia sarete al corrente, il mercantilismo è proprio sono i primi teorici in Inghilterra che cercano di dare, no, i canoni della nuova società capitalistica, no? Una delle tesi centrali del mercantilismo è tanti più persone, tanti più lavoratori, tanta più ricchezza, no? Non è la grandezza della terra, ma è il numero della popolazione, quanto più la popolazione è numerosa, che costituisce la ricchezza, the wealth of the nation, la ricchezza della nazione, sono i suoi lavoratori, i suoi poveri. E quindi in questa ottica c'è questa spinta del capitalismo iniziale all'accumulazione del lavoro, che si può vedere in tante forme. Per esempio l'espulsione dei contadini dalla terra è per accumulare un nuovo proletariato, è da questa espulsione che si crea una forza lavoro. La tratta agli schiavi è una grande accumulazione di lavoro, no? E io rapporto questo attacco alla contraccezione, questo attacco al controllo delle donne sopra il proprio corpo, no? Questa appropriazione da parte dello Stato, del corpo delle donne, no? Per farne una macchina di produzione di forza lavoro, no? L'utero diventa una macchina di produzione della forza lavoro. Io rapporto questo processo, no? Che viene appoggiato, che viene praticamente, come si dice, organizzato attraverso la caccia alla strega, lo rapporto proprio a questo tentativo, a questa visione del lavoro come la ricchezza sociale, no? E quindi la necessità del capitale di controllare quanti nascono, no? Di controllare tutto il processo di procreazione. Infatti in questo periodo nasce la demografia, no? È il periodo in cui si incomincia a tenere conto di chi è nato, no? I registri cominciano i primi registri dove ci si fa un censimento della gente. Un altro obiettivo chiaramente della caccia alle streghe è stato quello di disciplinare la sessualità delle donne, no? E ovviamente le due cose, disciplinare la procreazione e disciplinare la sessualità, sono molto legate, no? Disciplinare la sessualità delle donne perché? Perché la sessualità delle donne, prima di tutto, deve essere produttiva, deve essere procreativa. Quindi c'è il bisogno di affermare, con la pena di morte, no? Che le donne possono avere la sessualità, avere accesso alla sessualità, ma solo dentro i limiti della procreazione. E in secondo luogo, perché la sessualità delle donne incomincia a far paura, no? La sessualità è vista come una forza sociale sovversiva, perché sovverte la disciplina del lavoro, no? Cioè, il capitalismo incomincia un processo di riforma della sessualità per incanalarla in forme, no? Incanalarla in modi che non siano di ostacolo alla disciplina del lavoro e soprattutto non siano di ostacolo all'autorità dell'uomo sopra le donne. Perché la caccia alle streghe serve anche a stabilire che le donne debbano essere subordinate agli uomini, che le donne sono esseri particolarmente deboli di mente, soggette a essere tentate dal diavolo, no? Quindi sono quindi devono essere controllate dall'autorità maschile, dentro la famiglia e dentro la società, no? Quindi quello che io ho sostenuto con questo libro è che la caccia alle streghe certamente ha avuto uno scopo generale, no? Di trasformare, di cancellare forme di vita che non erano compatibili con il capitalismo, no? La caccia alle streghe in questo senso si può confrontare alla guerra contro la droga, alla guerra contro il terrorismo. La strega era la terrorista degli anni del 600 e del 700, no? E quando si guarda all'accusa di stregoneria, si vede che è una di quelle accuse così grandi, così difficili da comprovare, no? Che poteva servire a tante funzioni, un po' molto come la guerra al terrorismo oggi, no? Il terrorismo può significare tutto, no? Negli Stati Uniti, per esempio, no? Tante forme di lotte sociali, no? Sono state in un certo senso bollate di essere vicine al terrorismo, no? Quindi la strega senz'altro serviva a attaccare molte forme di vita inconciliabili col capitalismo. Però ha servito in modo specifico a creare tutta un'architettura sociale, in cui le donne, tutta una disciplina, architettura sociale, in cui le donne dovevano essere confinate a un lavoro svalorizzato, a un lavoro che doveva sempre di più essere invisibile, quindi dovevano essere svalorizzate loro stesse, no? E in cui sempre più, attraverso il salario, lo Stato avrebbe dato all'uomo l'autorità sopra le donne. In altre parole, con la divisione tra produzione e riproduzione incomincia un regime in cui i salariati controllano i non salariati. L'uomo o lavoratore salariato ha come compensa il controllo attraverso il salario sopra il lavoro della donna che lo riproduce, no? Quindi c'è tutta una gerarchia che si crea. E la caccia alle streghe è stato molto importante a creare, a dividere uomo e donna, a creare negli uomini un sospetto nei confronti delle donne, no? Le donne che li castrano, no? Le donne il cui potere va contro di loro, no? Le donne nemiche, le donne che sembrano normali ma poi di notte spariscono, si mettono degli unguenti sul corpo e vanno, volano alla Saba, a questi banchetti orrendi, no? Dove vanno a letto con il demonio, fanno il sesso con il demonio. Ecco, quindi immaginate tre secoli di questa propaganda, vedere donne trascinate, umiliate, no? Come questa caccia ha impattato l'immaginario collettivo e l'immaginario degli uomini, no? Ci sono anche altri temi molto importanti, secondo me, di cui parlo. Per esempio il tema della fame, no? L'Europa del 600 è un'Europa di gente affamata, no? in cui la fame continua. E non è un caso che nella caccia alle streghe la fame ha una sua correlativo, no? Questo, il tema del banchetto, il banchetto demonico, dove si mangia questi arrosti, si beve, no? Questa è una classe dominante che guarda i poveri con disprezzo, no? E vede questi, immagina che questi poveri, no, vogliono mangiarli di tutta la loro ricchezza, e quindi c'è questo banchetto demonico. Molte streghe erano anche accusate di uscire di notte, andare nei campi e mangiare gli animali dei loro vicini più ricchi. Molte streghe erano accusate anche di poter controllare il vento, le piogge, gli uragani e di distruggere i raccolti dei loro vicini più ricchi, no? Quando si legge, no, queste confessioni, quando si legge le descrizioni della caccia alle streghe, si ha la netta sensazione, una sensazione molto forte, che siamo in un mondo di gente espropriata, che siamo in un mondo di continua tensione, conflitto sociale molto molto alto, no? Dove la nuova classe dei ricchi vivono nella paura dei poveri, vivono nella paura dei poveri perché li hanno portato via tutto, no? E quindi la strega rappresenta il povero che si rivolta, la povera che si rivolta, no? Rappresenta tutto quello, le paure che la classe dominante ha di questa società, soprattutto contadina, a cui hanno portato via tutto, e specialmente le donne vecchie, no? Le donne vecchie sono quelle che ricordano, no? Sono quelle che ricordano, e sono quelle che hanno tutti i rapporti dentro la comunità, e non a caso sono quelle che sono più colpevolizzate, no? Spesso le streghe erano donne semplicemente povere che chiedevano la carità ai vicini, quando i vicini non gliela davano, ma le dicevano. E nel Medioevo, e neanche nel 600, fino al 600, al 700, le maledizioni erano considerate una cosa molto seria. Se io maledicevo una persona, creavo una tensione molto forte, perché si credeva che le maledizioni potessero compirsi. E molte donne furono accusate proprio per questo. Molte cosiddette streghe erano anche curandere, no? Le donne erano quelle che curavano i poveri, no? Nella società feudale curavano, la donna era anche un po' una medica, aveva il suo giardino di erbe, no? E questo rappresentava un potere sociale. Col capitalismo c'è anche un accercamento, un enclosure della conoscenza, si centralizza la conoscenza. No, comincia ad esserci una professione medica, no? Sono i dottori adesso che detengono la conoscenza medica, no? E si perseguitano tutte quelle attività che danno potere, no? A livello livello popolare, popolare. No? Bene, ovviamente c'è molto più da dire, ma voglio passare a un altro argomento molto collegato. In conclusione di questa prima descrizione, vorrei dire che con la caccia alle streghe si è costruita una nuova immagine della donna e una nuova immagine di quella che doveva essere la sua posizione sociale nel capitalismo. Se proprio per chi ha interesse a questo tipo di analisi, io credo che la caccia alle streghe sia un processo esemplare, molto esemplare, di vedere come si costruisce un'identità diversa, no? E quindi l'identità femminile nel capitalismo è senz'altro stata determinata in modo molto molto pesante dalla caccia alle streghe. La donna del Medioevo è una donna molto attiva, molto combattiva, è una donna che sempre coopera con le altre donne, ha una vita collettiva ed è molto anche eloquente. La donna che viene poi costruita col capitalismo è una donna che deve essere passiva, obbediente, silenziosa. In questo periodo si inventa la museruola per le donne, no? E questa cosa di ferro che chiude la bocca, come per gli schiavi, no? Una cosa incredibile, tremenda, no? Soprattutto deve essere una donna asessuale. Immaginatevi, la donna strega è la donna tutta sessualità, ma dalla caccia alle streghe esce una donna che deve essere completamente casta. No? Proprio c'è una trasformazione, una metamorfosi molto molto importante. Avviandomi a una conclusione, voglio invece sottolineare che tutta questa macchina di persecuzione è stata poi esportata al cosiddetto nuovo mondo e soprattutto, a cominciare dal secolo XVI, è stata esportata in Messico e nelle zone andine. In Messico, molto spesso, quelli accusati di stregoneria erano anche uomini, spesso capi, no? No? Perché? Perché la caccia, l'accusa di essere servitori del diavolo, di essere demonici, è servita anche a rompere la resistenza, è servita anche a costringere molti capi locali a produrre, a dare ai colonizzatori la ricchezza che avevano e a dare anche quella che non avevano, quella che i colonizzatori immaginavano che avessero. No? Nella zona andina, la caccia alle streghe si è rivolta soprattutto verso le donne, no? Anzi, sempre più la caccia alle streghe si è rivolta verso le donne. Però, anche nella zona andina, ha avuto un significato molto importante e un ruolo molto importante, no? A promuovere, giustificare l'espropriazione di interi villaggi dalle loro terre e la distruzione della loro religione, non che era una religione che venerava la naturalezza, e si è rivolta contro le donne per due ragioni fondamentali. No, prima di tutto, perché i colonizzatori hanno esportato, come voi sapete, queste non sono cose che devo spiegare perché già le sapete, hanno esportato tutta un'immagine e una pratica degradata nei confronti delle donne, no? Uno degli obiettivi nella cosiddetta America Latina è stato quello di creare non solo nuovi regimi di proprietà, nuovi regimi di lavoro, ma creare anche nuovi rapporti tra uomo e donna, non che hanno distrutto il potere, l'autonomia che le donne avevano nelle società precoloniali. No? Quindi le donne sono state ovviamente debilitate, attaccate, degradate molto più degli uomini nel processo di colonizzazione. Quindi per questo hanno resistito molto più duramente. E c'è tutta una letteratura molto interessante, importante, che sopra la resistenza delle donne nella zona andina. Io spero che la stessa letteratura sia, che senz'altro ci sarà una letteratura analoga riguardo al Messico. Io ho potuto solo vedere una parte, ma per la zona andina ho fatto un lavoro un poco più profondo e ho registrato che sono state le donne in prima persona che hanno fatto le forme di resistenza più importanti contro la colonizzazione. In molti casi hanno continuato le pratiche sociali, collettive, religiose, no? Underground, come si dice, segretamente. Sono fuggite sulle montagne, no? Nella Puglia, dove hanno ricreato comunità in cui hanno portato avanti i vecchi rapporti e la vecchia religione, e quindi per questo sono state le prime a essere colpevolizzate. E questo naturalmente è un processo che, a mio avviso, richiede molto più lavoro. Ci sono alcuni studi, ma io spero che qua, specialmente i giovani che ascoltano, saranno incentivati a continuare questo tipo di lavoro, perché secondo me c'è tanto, tanto ancora da scoprire. Anche in Europa c'è tanto ancora da scoprire, moltissimo. Bene, allora, sempre concludendo, vorrei dire che alcune cose importanti riguardo al rapporto tra caccia alle streghe in Europa e caccia alle streghe nel cosiddetto Nuovo Mondo. Prima di tutto, ho visto chiaramente che già nel XVII secolo esisteva una visione capitalistica internazionale, cioè si già nel XVI-XVII secolo si vede l'evolversi, si vede l'avanzare di un punto di vista capitalistico internazionale che continuamente usa la conoscenza acquisita nelle persecuzioni del Nuovo Mondo contro le popolazioni in Europa e viceversa. Usa la conoscenza acquisita perseguendo le popolazioni europee e la usa contro le popolazioni. Quindi c'è già questa visione internazionale che si crea, no, attraverso la classe politica, ma anche la classe religiosa. I missionari, hanno una importanza enorme in questo processo. I missionari veramente creano, sono gli intellettuali, erano gli scrittori, erano quelli che dicevano: ah sì, vedi, è quello che succede. E i missionari erano quelli che più frequentemente viaggiavano dall'Europa all'America e viceversa, e hanno avuto una grande funzione a creare questo punto di vista politico internazionale, capace di usare, non capace di creare nuove tattiche di persecuzione usando conoscenze acquisite in ambo le parti, no? Questo secondo me è fondamentale. Tra parentesi, una delle tesi sostenute da uno missionario, un famoso missionario, è che l'aumento del numero delle streghe in Europa era dovuto alla colonizzazione. Perché? No? Diceva questo missionario che Quando l'America, il nuovo mondo, è stato colonizzato, tutti i diavoli sono andati in Europa, perché questo era un mondo di diavoli. Però i diavoli si sono trasferiti in Europa, perché siccome questo paese, qua l'America, veniva civilizzata, i diavoli, e alcuni sostenevano di averli visti volare attraverso l'oceano. È vero, non l'ho inventato. Sì. E un'altra cosa molto interessante a questo proposito è che si crea un'immagine, no, del tipo proletario, no? Si crea un'immagine del nemico. Non solo si crea un punto di vista internazionale, capitalistica internazionale, ma si crea anche un'immagine internazionalizzata di chi è il nemico. Il nemico è il cannibale, è il servitore del demonio, no? È la persona che praticamente infrange la legge, che ha invidia nei confronti dei ricchi, no? È molto interessante vedere come sempre più nel corso del secolo XVI e XVII si dà un'assimilazione tra l'immagine del indios, quote, o indias, quote, e l'immagine della strega. Sempre più si assimilano, sono tutti e due cannibali, sono tutti e due servitori del demonio, sono tutti e due sodomiti lussuriosi, eccetera. E quindi la caccia alle streghe, no, ha servito a creare non solo l'immagine della donna nel capitalismo, a determinarla, ma anche l'immagine di quelli che sono, saranno poi le popolazioni colonizzate. E già si vede questa unificazione. Io credo che sia importante questo, credo che sia molto importante, sia quello che ho detto prima sul punto di vista internazionale che questa assimilazione, perché troppo spesso, no, nella documentazione storica, nell'analisi storica, si presume che la conquista coloniale sia stato un beneficio assoluto per tutte le popolazioni europee, e questo non è vero. Diciamo che sempre più nel corso dei secoli questo è stato vero, ma nel 600 e 700 in realtà la conquista coloniale ha dato alla classe politica, economica in Europa, il potere di distruggere tutto un mondo di lotte, che ostacolava l'avvento del capitalismo. E io credo che questa assimilazione dei Caliban e la Bruja, i Caliban come colonizzati, come simbolo dei colonizzati, e la Bruja come simbolo di tutto un mondo di donne colonizzate, no? O come colonizzate in modo interno, no? Perché c'è una colonizzazione interna con la caccia alle streghe, no? C'è un'evangelizzazione interna con la caccia alle streghe. Che questo ha servito, questa assimilazione è un esempio del fatto che non si può assumere che appunto l'avvento del capitalismo, la colonizzazione sia stato veramente un beneficio per l'Europa. In effetti ha distrutto tutta una classe di persone che si opponevano allo sviluppo del capitalismo. Ultima conclusione sul significato politico oggi di questo tipo di analisi. Allora, io posso solo accennarlo a grandi tratti, perché ho già parlato anche troppo, ma voglio dire che ha un significato politico, secondo me, importante, perché stiamo assistendo a un altro processo di accumulazione originaria. Io definirei, e non sono da sola, al contrario, il processo di globalizzazione in tutte le sue componenti, espropriazione della terra, aggiustamento strutturale, finanzializzazione della produzione, distruzione dello Stato, del welfare, tutto questo todo esto, lo definirei come un nuovo processo di accumulazione originaria. Perché? Perché nonostante le tattiche siano diverse, l'elemento comune è la distruzione rispetto a gran parte della cooperazione del mondo, dei mezzi più fondamentali del nostro sostentamento. E con questa distruzione, la liberazione in corso, no? Di una grande massa di forza lavoro che viene buttata sul mercato in modo da rompere la resistenza a uno sfruttamento più intenso, no? Quindi vediamo un processo che ricalca in molti modi oggi, ricalca i grossi processi che si sono dati all'inizio del capitalismo. E non a caso, anche oggi, mentre è vero che questi processi impattano tutti, uomini, donne, sono però le donne al centro di questo attacco. E voglio citare brevemente alcune cose. È chiaro, per esempio, che le donne hanno fornito quella grande massa di lavoro a poco prezzo di cui il capitalismo ha avuto bisogno per superare la crisi degli anni 60, crisi dovuta alla lotta anticoloniale, alla lotta femminista, alla lotta delle fabbriche, alla lotta del movimento indigeno, no? Cioè anche la globalizzazione, secondo me, va vista come una controrivoluzione. Una controrivoluzione che comincia con un grande processo di disciplinamento attraverso l'esproprio. E al centro di questo disciplinamento, attraverso l'esproprio, che prende molte forme, c'è l'attacco contro le donne, nuovi tentativi di usare, appropriarsi del corpo del lavoro delle donne. E non a caso, e qui mi fermo, abbiamo assistito nelle ultime tre decade anzitutto a un ritorno della caccia alle streghe. In molti paesi africani, India, Nepal, eccetera, migliaia di donne sono state ancora accusate, è una realtà che continua anche oggi, di essere streghe, cioè di uccidere, distruggere membri della loro comunità con poteri demonici soprannaturali. Questo sta ritornando, è un fenomeno secondo me di una gravità immensa, a cui però non si dà molta importanza sociale. Come saprete, non è al centro dell'attenzione sociale. Eppure migliaia di donne, si calcola solo in Africa, circa 30.000 donne sono state massacrate con accuse di stregoneria. In secondo luogo, molto collegato a questo fenomeno, c'è questo grande sorgimento, questo grande aumento della violenza contro le donne, una violenza contro le donne che ancora senz'altro voi conoscete molto bene, perché per esempio parti del Messico sono state epicentri, no, di questa violenza. Vengo da Oaxaca e a Oaxaca mi dicono è la seconda città in Messico per numero di donne uccise, oltre a quelle abusate, quasi una donna al giorno, sulla Juarez. Però questa non è una situazione eccezionale del Messico o del Guatemala o di quale aree dell'America centrale in cui c'è stata una guerra. E quindi molti uomini che hanno veramente conoscenza di armi e conoscenza di metodi abituati alla violenza. È una situazione molto generale che secondo me va rapportata proprio ai fenomeni sociali, economici che sostengono la globalizzazione. Per esempio, e qui concludo, in Italia in agosto, di fronte alla protesta soprattutto delle donne contro il continuo crescere del femminicidio, il governo italiano ha appoggiato una legge contro il femminicidio, una legge ci sarebbe molto da dire su questa legge e non lo faremo magari più tardi. Questo per dire che questa violenza non è una violenza specifica di alcune località che hanno avuto storie specifiche, anche se le differenze non sono irrilevanti, ma è una violenza che è generale e a partire dalla quale dobbiamo cominciare a pensare il che fare e le nuove forme di resistenza contro l'avanzare dei rapporti capitalistici oggi. Molte grazie.